Non c'è sottofondo migliore di un parco con tantissimi soggetti dell'inconscio che vociano e che non comunicano, non si esprimono, ma verbigerano, diciamo così, per accennare al fatto che, a mio avviso, sempre e ancora, se è possibile dirlo e ripeterlo ancora sempre, bisogna tornare a quanto diceva Carmelo Bene a proposito della distinzione netta, non ricomponibile, una distinzione veramente paragonabile al distacco che c'è tra Copernico e Tolomeo, la distinzione che c'è fra autori che fanno riferimento a una integrità dell'io inverificabile, inverificata e sempre tuttavia millantata dalla letteratura, e autori che invece lasciano il loro spazio, o meglio sono invasi dallo spazio del soggetto dell'inconscio. Queste due realtà sono non componibili o scarsamente componibili, e sempre e comunque l'impressione è che là dove c'è comunque un'ombra di, o una parvenza, un profilo di io che tenta di atteggiarsi a integro e che tenta quindi di mostrare come non frammentate le parti di specchio che sta agitando davanti al proprio pubblico, ecco, lì dove comunque c'è qualcosa di simile, è sempre, se la qualità è alta, a primeggiare un inconscio e il relativo soggetto, che è parlato più che parlare. Questo non significa la banale, brutale, sciocca anarchia del sottobosco che in Italia spadroneggia, che ormai ha preso tutti gli ascensori possibili, pensando di arrivare in vetta, in realtà arrivando all'imo della pubblicistica mainstream. Non significa questo. Ciò che significa non è intuibile o forse visibile adesso, lo sarà tra qualche anno, ma già adesso si intravede quali sono le rotte pericolose e le rotte sicure, e ovviamente non si può che parteggiare per le prime.